C'eri tu, eppure io nessuno più. Ci siamo presi per la mano. Poi tu volevi un po' di più, eppure io ma un po' più tu. Ci siamo amati forte e piano. Poi io più forte, tu più piano. Ci ameremo pure da lontano. L'amore perfetto solo quando sei qua e dirti che ti amo tanto, che pure questa notte ho pianto. Non servirà.